then she confronted with the writing there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcerting air, and though she tried to hide the love that she denied, wouldn't you know it, she wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her my wife all the sweet things I can find. Ho avuto degli altri avvertimenti in questi 20 anni, che qualcosa forse c'è, qualche crepa c'era. No, in questi 20 anni io ho fatto di tutto affinché non ci potesse essere nessuna crepa, tra virgolette. Il fatto di essere assolutamente rassicurante. Sì, che tu dici ho avuto degli altri click che io ricliccavo immediatamente. Prima, cioè in tutta la mia infanzia. Ah, ok. Cioè tutte le cose. Sì, è chiaro. Ci sono stati tantissimi momenti nella mia infanzia in cui ho dovuto reprimere le mie spinte. Un episodio abbastanza esemplare è successo quando avevo 12 anni. Abitavamo in un quartiere bellissimo, si chiamava Villaggio dei Fiori. Erano tante casette con il giardino davanti pieni di fiori e tutti noi ragazzini delle scuole medie, che ci conoscevamo tutti ovviamente, d'estate ci trovavamo dopo cena in strada davanti a casa a giocare. Una sera avevo un paio di pantaloncini bianchi che a me piacevano tantissimo. Non avevano niente di particolare, mi sembravano un po' più moderni rispetto al mio solito abbigliamento rigorosamente scelto da mia mamma, che ovviamente mi facevano diventare una ragazza molto seria. Avevo questi pantaloni bianchi con le superga bianche, anche quelle. Saltando e correndo ero inciampata nel marciapiede e tra il marciapiede e la carreggiata era cresciuta dell'erba che mi aveva leggermente macchiato i miei pantaloni bianchissimi. Io sono tornata a casa ed eravamo davanti a casa, cioè non è che sono rientrata alle 2 di notte con i capelli come mi vedi adesso, cioè, okay. Per cui ti trovi con davanti a casa, cioè mia mamma poteva scostare la tendina della cucina e ci vedeva lì, chi con le biciclette perché abitava all'inizio della strada, chi a piedi perché abitava il numero civico dopo, ok? Sono entrata dentro casa, ho visto il verde, dove sei andata? Ho detto, come mamma, dove sono andata, mi hai visto? No, tu sei andata a Campi, a Argini con... Mamma, cioè, quindi mi aveva accusata di essere andata in giro a darla a destra manca perché avevo il pantalone sporco di erba. Questo tipo di regole e di giudizi era all'ordine del giorno per me. Dunque la mia strategia era diventata quella di essere invisibile. E per essere invisibile dovevi essere perfetta. E per essere perfetta dovevi fare in modo che tutto intorno a te fosse perfetto. Tu entri in casa e hai sempre una 6 fiori. Che negli anni 50 ci sono sempre i fiori. Hai sempre la torta, i famosi biscotti da credenza, il biscottino che offriva la signora di casa all'ospite con il rosolio, il bicchierino sbalzato. Erano tutte delle buone pratiche che facevano le brave signore di casa, che fossero del secolo scorso, 2 secoli fa, ma il biscottino da credenza, il golosesso veneziano ha questa narrazione. Tutto quello che ho dentro prorompe all'improvviso dopo 20 anni e decido di affrontare la situazione con una sola soluzione. Non si mangia, non si mangia, non si mangia. Linee d'ombra. Vi stiamo raccontando la storia seriale della settimana, chiusa in un pacchetto unico, potete anche riascoltarla in podcast. Lei è Anna Maria, è la protagonista, ha raccontato la sua storia a Mauro Pescio e ora andiamo a chiudere questo pacchetto di 5 storie. Mi hanno ricoverata e c'è una struttura che c'è qui a Padova, a Teolo in realtà, in provincia, si chiama Parco dei Tigli, che sempre fa parte sempre delle battute di tutti. E pochi sanno di questo ricovero, per cui tanto quando mi vedono sempre di corsa così, fa Madonna Santa, ne fai una più di Bertoldo, finirai il Parco dei Tigli. E allora gli dico, ci sono già stata e sono anche certificata, perché... E allora finisce proprio così, no? Come dire, voi siete tutti matti, ma io ho il timbro che lo sono sul serio, per cui solo io posso dire che lo sono.

Ed eccola qua, grazie davvero ad Anna Maria. Per quanto sia incredibile, sia inconcepibile, straziante la storia che ci ha raccontato, il fatto che lei ce la racconti dalla sua viva voce ci dà una grande serenità, perché ha capito quanto stava sbagliando, è sopravvissuta e ha reso il cibo non un nemico, ma di fatto un amico. Continuerà a raccontarcelo. Noi ora vi lasciamo godere il sabato sera, vi lasciamo godere la domenica. State a casa, mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, mandateci i vostri diari di quarantena, ma soprattutto ascoltate, se avete voglia, ascoltate i nostri podcast, ascoltate tutta Radio 24 che vi sta raccontando che cosa sta accadendo in maniera incredibile da un punto di vista ormai storico in questo paese. Ci sentiamo lunedì puntualissimi alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per stare su e per conoscere il mondo. Viva!